tue parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto, solo il tuo è perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare, di chiacchiere in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E ciao a tutti e tutte, bentrovati e bentrovate ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Vi trovate come di consueto sempre sul nostro spazio radio della stampa rassegnata, nel quale con la fine del 2017 e l'inizio del 2018 abbiamo cominciato a dare vita a questo spazio nel quale facciamo riflessioni e ragionamenti intorno alla cronaca locale e a ciò che succede nella provincia di Firenze, con particolare attenzione alle vicende dell'aeroporto e dell'inceneritore di Case Passerini Firenze, intorno e contro i quali si è sviluppato un discreto movimento popolare. Vi ricordo che per quest'estate, invece, anziché dedicarci alle cronache locali, che è un po', come ho detto, il DNA di questa trasmissione, abbiamo invece preferito dare spazio alla vicenda di Genova e del G8 del 2001. Lo abbiamo fatto, come ho spiegato, nella puntata numero 27, con cui abbiamo cominciato appunto a dare spazio a Genova, sia per ragioni di rigenerazione, diciamo, mentale e fisica, sia perché ci prendiamo, e con questo ci siamo presi, una sorta di vacanza da noi stessi e dal nostro impegno controinformativo, sia perché le vicende di Genova restano a noi, ai nostri occhi, particolarmente interessanti e ancora cariche di problemi che si riflettono ancora sul presente della nostra società e dei movimenti che tentano la trasformazione sociale, e quindi abbiamo ritenuto interessante, curioso e opportuno dare questo spazio a Genova. Come piccola guida all'ascolto vi dico che ho utilizzato dei materiali di archivio e quindi delle trasmissioni anche abbastanza lunghe e corpose che non sono rientrate all'interno di un'unica trasmissione, ma che ho spezzato per comodità e per esigenze di spazio. Si parte con la trasmissione del numero 27 di Stampa Rassegnata, poi la 28 e la 29, all'interno delle quali trovate un'unica trasmissione fatta da Radio Onda Rossa, che aveva ricordato nel decennale di Genova attraverso una serie di giornali dell'epoca, del 2001, sia il clima politico e mediatico che si respirava prima di Genova che nei giorni immediatamente dopo. Ve la consiglio come ascolto sotto l'ombrellone, come abbiamo detto, un po' per ridere, un po' seriamente, e quindi ripeto, 27, 28 e 29 sono le puntate della Stampa Rassegnata che racchiudono questa trasmissione. Invece, con la puntata precedente, che è la numero 30, e con questa che andiamo a realizzare, vi riproponiamo una iniziativa, un'assemblea pubblica, quindi una trasmissione in diretta, una registrazione fatta da Radio Onda Rossa che ha permesso di l'ascolto e anche quindi il recupero attraverso l'archivio di Archive, questa assemblea nazionale che parlava appunto del reato di devastazione e saccheggio, strumento repressivo utilizzato contro i manifestanti di Genova 2001, contro il G8, sia contro molte altre situazioni in Italia. Non rubo altro tempo, vi ricordo che ci potete ascoltare in diretta il lunedì alle 15.30 o in streaming il mercoledì alle 23.59 o il giovedì mattina alle 8.30, oppure scaricarvi i podcast. Ripeto, non vado a rubare altro tempo a questa trasmissione che chiuderà la registrazione dell'Assemblea Nazionale riparte esattamente dal punto in cui avevamo stoppato la puntata numero 30, ci saranno delle domande, ci saranno più interventi e il clima che si respira è quello di una assemblea aperta e con i microfoni rivolti e appunto aperti al pubblico che la partecipa. La trasmissione è stata un po' maneggiata direttamente dalla redazione di Radio Onda Rossa, che ha inserito degli stacchetti musicali che io ho lasciato esattamente come erano. Solo per la cronaca, a un certo punto la compagna che tra virgolette conduce l'assemblea cita anche Firenze tra le iniziative che saranno realizzate e sta parlando per la precisione di un'iniziativa del 2012, dell'estate del 2012, che si svolse effettivamente, era il 12 luglio, avevamo proposto alcune visioni e ascolti all'interno di un'iniziativa della campagna 10% che fu replicata in diverse città italiane. C'eravamo anche noi quel 12 di luglio al Campo di Marte, avevamo organizzato l'ascolto e la visione di materiali d'archivio riferiti a Genova. Quindi ci siamo schierati anche in quel periodo a fianco di coloro che stavano subendo la repressione, nonostante tutto, e niente. Quindi è solo per la cronaca che dico che vi ho specificato che tipo di iniziativa era e realizzammo rispetto a quello che appunto la compagna andrà a dire. Era il 2012. Un grande saluto, a risentirci per la prossima settimana e per la prossima trasmissione. Ciao ciao! Due cose a questo che ha detto Marco. Uno è che non dimentichiamo, insomma, che anche tutta Genova e quindi anche tutte le specifiche e le parole che sono state date, la devastazione, saccheggio piuttosto che arresti eccetera, ebbe dei precedenti a marzo con Napoli, quindi diciamo che un'unità di intenti politico, io direi anche dell'apparato giudiziario, mi sembra, insomma, ce lo dimostra la storia, non poi non so se Romeo vuole intervenire. E l'altra cosa che volevo dire è che secondo me sempre di più, e l'esempio forse del 77 potrebbe essere, nel senso che sono comunque, dovrebbero essere, in questo insomma noi con questa campagna un po' ci abbiamo provato, essere i movimenti a cercare di orientare, comunque visto che poi le leggi ricadono su di noi, le restrizioni, la repressione ricade su di noi, dovrebbero essere i movimenti e le lotte in genere a avere la forza di cercare di ovviamente arginare e unire più che altro gli intenti per obbligare la magistratura, ma io dico sempre la politica perché poi secondo me la magistratura è molto legata in questo, affinché determinati reati, affinché determinate cose non avvengono. In questo sicuramente anche qui Genova è un altro esempio, cioè la mancanza di unità di intenti del post Genova, la mancanza di riflessione, la mancanza di difesa generale ha portato oggi comunque a 10 persone ad avere un reato che fa paura a tutti, e quindi forse anche qui ci fossimo premuniti prima e avessimo iniziato da un po' da prima, questo è un'autocritica generale. Comunque io passerei adesso, non so se Romeo vi sta preso Sì, una considerazione a quello che ha detto Marco, in aggiunta voglio dire. Quello che dice Marco è sicuramente una fotografia dell'esistente e di quello che tocca cominciare a fare, con una ulteriore consapevolezza secondo me, che la proliferazione dei pacchetti sicurezza a ogni stormir di fronda, come dice lui, e la mancata approvazione dei codici repubblicani, il codice di procedura penale già c'è, ma di un codice penale repubblicano che doveva essere uno dei primi compiti già dal 1948, e sono due facce della stessa medaglia, e cioè di quella impotenza della politica, che non fa altro che assecondare la forza degli apparati, perché in buona sostanza ormai gli apparati di polizia, di pubblica sicurezza, l'apparato della magistratura detengono il vero potere politico su queste questioni. La politica non esiste su queste questioni, la politica istituzionale intendo, la politica segue nel senso che applaude, fa il tifo all'operato delle forze dell'ordine e della magistratura. Questo è il dato di fatto. Addirittura siamo arrivati, come dire, c'è un dato anche particolarmente significativo. Qualche mese fa, molti di voi lo ricorderanno, furono proprio esponenti delle forze di polizia a chiedere che la magistratura e la politica volessero applicare in modo più estensivo il reato di associazione a delinquere per poterlo modellare sui comportamenti del movimento NoTav. È un dato di fatto della forza degli apparati e della impotenza della politica, tra virgolette, istituzionale. Allora io darei la parola, sì, ce ne, se volete, darei la parola a Dina Galano. Sì, e di Antigone, che ovviamente Antigone sta facendo questa battaglia sulla tortura, per cui insomma ci sembrava buono che all'interno di questo dibattito si parlasse anche di un altro reato, insomma, che è stato molto perpetrato a Genova, che non è stato assolutamente riconosciuto, di cui insomma si sta parlando molto in questi ultimi mesi, per fortuna, e lascio comunque la parola a lei. Sì, grazie a tutti, si sente? Ok, per quanto riguarda quello che dicevi prima tu, cioè il fatto di unire gli sforzi e sull'associazionismo che è spesso diviso, ma che invece ci deve provare un po' a unirsi in alcune battaglie, diciamo che con questa intenzione Antigone partecipa oggi alla vostra campagna e mi viene subito da pensare che sia molto significativo il fatto che oggi si discuta, diciamo, della depenalizzazione o del ripensamento del reato di devastazione e saccheggio, quando noi, insieme anche alla campagna 10%, stiamo chiedendo, e a tantissime altre associazioni, l'introduzione di un reato. Questo, infatti, da quello che è stato detto finora si capisce bene di quanto indietro siamo a livello sia processual penale sia a livello proprio di cultura dei diritti umani in questo paese. Tra l'altro è significativo anche che il reato di devastazione e saccheggio abbia come bene giuridico tutelato le cose, quando invece il reato di tortura, di cui noi chiediamo l'introduzione da ormai 25 anni, ha come bene giuridico la dignità umana delle persone. E quindi il fatto che ci voglia tanto tempo per pensarci su e tanti tentativi sprecati, malmessi, malfatti di introdurre una fattispecie di questo tipo è abbastanza significativa della mancanza proprio dell'intenzionalità politica e degli apparati, come si diceva, a prendere una posizione in tal senso. Allora, io sarò molto breve perché mi rendo conto che i temi sono connessi ma sono anche un po' diversi. Quest'anno è stato molto importante perché abbiamo avuto alcune pronunce giurisprudenziali che hanno chiaramente espresso il fatto che, mancando la fattispecie di reato, cioè mancando il reato di tortura, alcuni comportamenti effettivamente documentati come tali da parte delle forze dell'ordine non sono stati puniti. E il caso che vorrei che anche voi conosceste è quello del Tribunale di Asti, il cui giudice ha dovuto decidere un caso in cui di maltrattamenti, abusi e tortura su due detenuti stranieri, risalgono al 2004-2005 questi maltrattamenti, e gli agenti penitenziari erano 4 o 5 alle volte, che vi risparmio i dettagli, ma perpetravano ogni genere di abusi su due detenuti che erano stati messi nella cosiddetta cella liscia. Tutte queste pratiche sono state documentate da intercettazioni, quindi anche qui la prova era abbastanza evidente, e nella sentenza del 30 gennaio di quest'anno, con cui sono stati prosciolti gli agenti per intervenuta prescrizione, proprio perché i reati di cui erano imputati dal 2005 ad oggi sono andati prescritti. Ricordo che il reato di tortura, così come è pensato ed è in vigore in tutte le convenzioni internazionali, è un reato imprescrittibile per sua natura, perciò dovrebbe essere introdotto, perché passa sempre molto tempo sia dalla denuncia che dalla libertà nei casi in cui la tortura venga perpetrata in carcere. È difficilissimo ottenere delle testimonianze che non siano o di compagni di cella o di altri di persone vulnerabili, torture effettivamente effettuate. Quindi i reati per cui erano accusati sono andati prescritti, i cinque agenti penitenziari sono quindi ad oggi prosciolti, ma in quella sentenza, ed è l'ultima di una serie, di una giurisprudenza minoritaria ma che esiste, abbiamo avuto scritto nelle motivazioni che quei comportamenti sarebbero stati altrimenti punibili perché configuravano tortura, e questo l'ha detto un giudice italiano pochi mesi fa, uniformandosi ad altre sentenze che in maniera forse meno esplicita però hanno potuto sottolineare l'importanza di avere questo genere di fattispecie. Ne sono usciti tanti di casi quest'anno, uno addirittura tramite la trasmissione Chi l'ha visto è stato riportato, ricostruito quello che si perpetuava negli anni 70 con il cosiddetto professor De Tormentis, che andava a torturare sistematicamente tutti i detenuti legati più o meno all'EBR o insomma detenuti politici. E quindi quest'anno diciamo che qualcosa in più si è sentito dire su comportamenti passati che potrebbero essere puniti se fosse introdotto questo reato, e Antigone sta facendo una campagna da 2 mesi che si chiama Chiamiamola Tortura, e raccoglie anche Antigone le firme per dare fare un po' di pressing sulla legislatura in corso, anche perché pare, insomma, è certo che c'è un disegno di legge attualmente all'esame della Commissione Giustizia Senato che ha come relatori Casson e Bolboni per il PDL, quindi è bipartisan, che è l'ennesimo di una serie innumerevoli che potrei anche elencarvi, ma sono stati uno dopo l'altro dei fallimenti annunciati. E questo reato, scusate, questo testo all'esame della Camera non è ancora ufficializzato. Quello che sappiamo per ora è che si sta discutendo su declinarlo come reato comune e non come reato specifico. Noi sappiamo che la tortura di per sé, cioè per natura direi, è il reato commesso dai pubblici ufficiali o da chiunque comunque, no, svolge funzioni in rappresentanza dello Stato, e invece si sta discutendo appunto di introdurre una fattispecie di reato comune, che significa che lo dovete immaginare come chiunque, no, chiunque potrebbe torturare, che è un po' E l'altra cosa altrettanto aberrante per noi, ma comunque manteniamo i toni bassi perché si tratta sempre di dover scegliere una via, comunque è una via, insomma, quella che si è aperta, quindi noi non diciamo mai che critichiamo per migliorare un testo di cui comunque auspichiamo l'approvazione. E l'altra cosa che ci fa molto riflettere è il fatto che questo testo non prevederebbe la imprescrittibilità del reato, quindi è un'altra cosa che ovviamente la Convenzione internazionale lo dice, che la tortura è imprescrittibile, invece pare che il testo su cui si stia ragionando dovrebbe avere una prescrizione anche lunga, però comunque una prescrizione. Quello che vorrei aggiungere come a livello di riflessione, oltre a questi dati più o meno attualità, è che la vera domanda secondo me che bisognerebbe porsi in questo paese dai diritti civili e politici rispettati è se noi siamo di fronte a dei casi, cioè se si tratta di un sistema o si tratta di episodi. Cioè la vera domanda è: la tortura in Italia è un fatto episodico, un fatto sistemico? Noi dovremmo interrogarci su questo, perché il fatto che venga interpretata ad Asti, venga interpretata a Bolzaneto con quell'evidenza, venga interpretata in tantissimi altri casi che non si portano alla luce per tantissimi motivi, in primis la vulnerabilità di chi subisce. Ecco, io mi interrogherei su questo, perché la differenza, cioè la diversità dei casi che abbiamo riscontrato e che riscontriamo, pur se non è quantificabile, qualitativamente individuabile, io credo che ci debba far ritenere che siamo di fronte a un fenomeno sistemico, e quindi come tale non dobbiamo sottovalutarlo. Io non so se ci sono delle domande. Se qualcuno o qualcuna vuole fare delle domande agli avvocati o vuole intervenire e dire qualcosa, Altrimenti ci volevamo collegare telefonicamente per far intervenire anche l'avvocato Losco su quanto riguarda la questione della devastazione e saccheggio dentro i centri di identificazione ed espulsione. Ad oggi, adesso parleremo anche con lui, e, insomma, i posti dove maggiormente viene dato, sta procedendo il reato di devastazione e saccheggio. Quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande o vuole dire una cosa, va bene, se no facciamo intervenire brevemente Losco. Sì, mi sente? Va bene. Allora, diciamo, non so se lei è riuscito un po' a sentire. Allora, attacco il telefono. Se lei è un po' riuscita a sentire tutto il discorso che abbiamo fatto sul reato di devastazione e saccheggio, so che sei in macchina, per cui probabilmente molto no. Le chiederei, insomma, se le va di raccontarci cosa succede dentro CIE, dentro i centri di identificazione ed espulsione, come possa, insomma, essere dato in questo periodo un reato che prevede anche una mobilità, diciamo così, della persona e la reiterazione nel tempo che nello spazio ai migranti dentro i CIE. Penso che sappiate bene che cosa sono i CIE. I CIE sono questi posti strani dove vengono portati gli stranieri, vengono incarcerati e subiscono una detenzione amministrativa, una detenzione che viene imposta a queste persone senza che abbiano commesso questo. Infatti non credo. Sì, stiamo parlando dei CIE, che immagino voi sappiate che cosa siano. Stavo dicendo che i CIE sono dei luoghi dove vengono condotti gli stranieri per essere rimpatriati. Sono dei posti dove viene imposta a queste persone una detenzione amministrativa, una detenzione imposta senza che queste persone abbiano mai commesso dei reati. Questi posti sarebbero funzionali al successivo rimpatrio degli stranieri, ma si trasformano semplicemente in un parcheggio per queste persone, un parcheggio che la nostra legislazione ha ampliato i limiti temporali di questa detenzione, una detenzione che si è trasformata da un minimo di un mese, di due mesi, adesso la nostra legislatura prevede una detenzione amministrativa addirittura di un anno e mezzo. Cosa succede? Gli stranieri, queste persone ovviamente non capiscono i motivi per cui è imposta questa detenzione e molte volte all'interno dei centri vi sono delle normali proteste. Noi nel corso degli anni abbiamo seguito numerose di queste proteste che purtroppo sono sfociate in alcuni procedimenti penali. Di solito per questi fatti veniva contestato per lo più il reato di resistenza o di danneggiamento, di incendio seguito al danneggiamento. Per la prima volta quest'anno la Procura di Milano ha deciso di alzare il tiro e ha contestato la devastazione e saccheggio. E proprio da un paio di settimane è iniziato a Milano questo procedimento nei confronti di queste 9 persone, quasi tutte tunisine, anzi tutte tunisine, che rispondono di devastazione e saccheggio per un episodio che è accaduto all'interno del centro di Corelli intorno a metà gennaio di quest'anno. Pronto? Io sto parlando adesso. Pronto? Pronto? Sto parlando adesso. Pronto? Sì, pronto. Eccoci qua, un attimo. Non è sorpreso per collegare. Non so se qualcuno voleva fare delle domande, comunque sicuramente continueremo a seguire questo processo. Vabbè, non si sente il microfono tantissimo bene. La ringraziamo, avvocato. Mi piace che non si senta, purtroppo sto andando in Val di Susa per il processo a TAV. Vabbè, ci saluti la valle ovviamente e ci risentiremo più in là per capire come proseguirà questo processo contro i migranti tunisini, che è abbastanza paradossale poi che avvenga nei confronti dei tunisini, forse gli stanno dando, insomma, che avrebbero dovuto avere quasi l'asilo o permessi invece, insomma, ci hanno processi per devastazione e saccheggio. I permessi umanitari rischiano di prendere 8 anni di carcere. Appunto. Va bene, la ringrazio avvocato, buon viaggio. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Shining on my face, burning trees are disappearing white, dunes are dancing all around. Di nuovo l'invito, se ci sono domande, se qualcuno vuole dire qualcosa, altrimenti io anche non so se gli avvocati vogliono aggiungere qualcosa. Mi sembra che dovete venire qua però, perché sennò senza microfono non si sente. Ciao, no, io volevo portare e quindi chiedere anche agli interlocutori stasera di centrare un po' un tema, perché cioè un tema sostanziale secondo me, che quando si parla di queste cose è il tema dello Stato. Voglio dire, qui si è parlato di politiche, di governi, però poi che hanno detto tutti, no? Perché è riscontrato dalla realtà che la repressione dei fatti di Napoli, della contestazione di Napoli avvenuta in ambito di governo di centrosinistra è stata più o meno simile, al di là delle conseguenze, a quella invece col governo Berlusconi nel luglio 2001, a distanza di pochi mesi. E soprattutto, ma questo è solo un fatto, perché il problema dello Stato, noi dico in generale, compagni, compagne del movimento in questa fase, lo sottovalutiamo eccessivamente, a mio avviso, perché lo Stato è quello che mantiene una continuità di politiche repressive, di politiche dell'ordine pubblico, di quel concetto che ha espresso più volte Simonetta e altri anche gli altri interlocutori che stanno qui, di criminalizzazione del conflitto, che più che una cosa che attiene ai governi, che poi i governi ratificano, cioè sostengono questa cosa, ma i governi passano, sono transitori, lo Stato assume una continuità di questo elemento. Lo Stato è la forza pubblica, tutte le sue forme, la polizia in tutte le sue forme, fino agli accalappiacani che diceva Simonetta, cioè tutti quelli in divisa che presiedono all'ordine pubblico. Lo Stato è la magistratura, lo Stato è la magistratura contabile, oltre a quella punitiva. È una struttura in qualche modo appunto traguarda i governi. E che vuol dire allora affrontare il tema della magistratura, che spesso è autonoma dai governi, lo dovrebbe essere per definizione, e comunque non è che quando viene un governo nuovo cambia tutti i pubblici ministeri, i giudici, eccetera, non lo può fare, non lo fa. Quindi voglio dire, il problema del rapporto tra un movimento di contestazione, di cambiamento, se volete lo chiamiamo antagonista o rivoluzionario, rispetto allo Stato, è un punto che è centrale. Io voglio ricordare per tutti che dobbiamo tornare un po' indietro per capire bene questo Negli anni 70 la rottura tra il movimento operaio ufficiale, il Partito Comunista, i sindacati e quel movimento che si definì movimento rivoluzionario anche per le cose che ha fatto, è maturata proprio sul terreno non tanto di questa o quella politica che faceva il governo, prima democristiano, poi di unità nazionale, eccetera, ma proprio sul terreno dello Stato. Lo scontro, la rottura insanabile e irreversibile che si è avvenuta tra quel movimento e i partiti, diciamo, che c'erano allora, avvenne proprio sul tema dello Stato, quando il capo del Partito Comunista Berlinguer disse: la classe operaia si deve fare Stato, cioè assunse più che gli altri partiti il ruolo di mantenimento dello Stato, cioè quello che mantiene lo stato di cose presenti, cioè che riproduce la società così com'è, pur nelle diverse politiche, relativamente diverse sulle politiche economiche ed altro, però mantiene quella continuità che fa riprodurre la società esattamente così com'è. Ecco, questo è un ruolo che nel momento che si affrontano questi temi, noi per esempio credo che abbiamo perso, noi in generale, poi senza ovviamente chi c'ha più o meno responsabilità, abbiamo perso troppo tempo, troppa energia, diciamo, oltre che tempo, nell'affrontare la critica al governo, per esempio passato, Berlusconi, o a questo governo, che va bene perché le politiche economiche le fanno loro, e che in questo momento le politiche di gestione della crisi le fanno loro, in questo momento sono estremamente importanti, però il terreno dell'ordine pubblico, della gestione del conflitto, cioè del fatto che e su questa è la domanda poi, che il conflitto sociale, che si manifesta nei mille modi possibili e storicamente determinati, che suona in un paese aperto come volontà di partecipazione, cioè come dovrebbe suonare, come allargamento della partecipazione dei soggetti sociali alla gestione della cosa pubblica, da un certo momento in poi in questo paese è diventato invece criminalizzazione dello stesso, cioè il conflitto che chiede più partecipazione, allargamento della sfera decisionale, è diventato invece criminalizzazione. Ecco, questo è il terreno che dovrebbe diventare, oltre quei normali terreni di conflitto che pratichiamo, il terreno di riflessione in primo luogo, cioè la questione dello Stato rispetto al movimento, perché si fanno le cose, si parte, poi di fronte al terreno dell'ordine pubblico vediamo che cioè, ci troviamo veramente ingabbiati in una situazione che rende impraticabile poi ogni terreno, perché in quello che hanno detto loro, cioè oggi qualunque cosa, qualunque manifestazione, se va oltre la processione, rischia appunto di diventare talmente diciamo onerosa per chi pratica, ad arrivare a 15 anni di galera, che quindi stronca ogni possibilità di conflitto. Questo volevo dire. Io penso che vuoi parlare su questa osservazione, perché perché non volevo affrontare il problema specificatamente dello Stato, perché se noi partiamo da Genova, anche essendo passati per Napoli, è evidente che la volontà dello Stato è stata quella di avallare questa trasformazione dei diritti, che io dico sociali e politici, dei cittadini, perché tutti coloro che sono andati oltre l'argine della non democrazia a Bolzaneto e alla Diaz, e quindi tutti i poliziotti, i responsabili e i capi di questa polizia, sono stati prosciolti, ma non solo prosciolti, promossi, sono diventati, e quello ce lo dovevamo aspettare a quel punto, capi dei servizi segreti, perché questo Stato regge su queste strutture. Per cui se tu pensi ingenuamente che queste strutture possono essere punite da coloro che li utilizzano e coloro che sono anche ricattati da queste strutture, ricordiamoci che i carabinieri sono diventati un esercito, non per volontà di Berlusconi ma per volontà del governo di centrosinistra. È proprio trasversale la scelta dello Stato di polizia, è una scelta trasversale. E non voglio ripetere che la magistratura italiana è l'unica nei paesi che hanno subito le dittature, è l'unica che si è prestata durante il fascismo a fare il tribunale speciale senza bisogno che fosse un tribunale speciale. Gli stessi magistrati che curavano la giustizia ordinaria hanno formato il tribunale speciale fascista, hanno formato i tribunali speciali somali e i presidenti di quei tribunali sono rimasti qui. Il presidente della prima corte assise che ha giudicato per il processo Moro era lo stesso che stava nella corte d'assise somala per conto dello Stato italiano, lo stesso di un tribunale speciale. Quindi la continuità storico-politica dell'Italia è questa, quindi non facciamo gli ingenui che un governo è meglio di un altro. Sul lato dell'ordine pubblico e della repressione è stato tutto sempre molto semplice e non sarà cambiato chiunque vada ai governi, e perché appunto non si subisce soltanto da parte nostra la repressione, ma anche i ricatti da parte di chi conosce tutto e sa tutto di tutti. Scusate, io volevo dire una cosa, la dico con un certo sconcerto, sia per la discussione che c'è stata questa sera, ma anche da quando questa campagna è stata avviata. A me colpisce il fatto, l'assenza di una parola importante, una parola fondamentale, colpisce il fatto che non la si evochi, che non la si pensi, che non la si tiri fuori come lo strumento fondamentale, che è stato lo strumento che da sempre il movimento operaio ha utilizzato per difendere i propri militanti, amnistia. Io non capisco come non possa venire in mente. Non ho capito. Appunto. A maggio. Ma se noi stessi non la lanciamo questa battaglia, se noi stessi non la recuperiamo, è la leva, qui ci vuole una leva forte. La leva forte è quella che è stata sempre utilizzata dal movimento operaio in tutti i cicli di lotta. I cicli di lotta producono inevitabilmente dei costi, delle vittime nel campo di chi fa le battaglie. Ci sono le sanzioni, ci sono le condanne, c'è chi va in carcere. Il movimento operaio storicamente ha utilizzato l'amnistia come uno strumento per recuperare quei militanti, il che voleva dire preparare il ciclo successivo. Questo non si fa più da un certo numero di anni, lo sappiamo, da quando il giustizialismo come un cancro è entrato nella cultura della sinistra. E io dico, se non si riparte da questo, qui tra pochi giorni c'è il rischio che 10 compagni vanno in carcere. E quando saranno in carcere che si farà? Aspettiamo che chiediamo le semilibertà? Chiediamo gli affidamenti? Non sappiamo nemmeno dove rimanderanno, pensate che resteranno a Roma, non so, nelle loro città, non si sa, li concentreranno nel circuito degli S2, non lo sappiamo. Qui bisogna iniziare una battaglia. Non so, io lo dico, faccio un intervento un po' così emotivo, però a me stupisce, bisogna ricominciare a reinnamorarsi di questa parola, perché è la parola che sarà sempre utilizzata, è la leva per poter riaprire tutto. Volevo dire una parola sull'amnistia, scusa compagno, ma l'amnistia ha sempre coinvolto, perché cancella il reato, reati non superiori nel massimo ai 3 anni. L'amnistia non ha mai coinvolto l'abolizione di reati che sono superiori. Noi stiamo parlando di accuse che da qualche anno a questa parte sono arrivate alla devastazione del saccheggio e va da 8 a 15 anni. Chi te l'amnistia è un reato? Non esiste. Sì, ma l'amnistia politica è diversa, l'amnistia giuridica è quella che invocano i compagni perché è l'unica oggi possibile, l'amnistia politica può avvenire soltanto a seguito di una guerra civile, tant'è vero che le Brigate Rosse quando hanno chiesto di cancellare gli anni di quelle lotte per liberare quei compagni che da 20-30 anni erano in carcere nonostante non avevano anche compiuto nulla perché venivano condannati solo per l'appartenenza alla banda armata, solo per aver detto sono d'accordo senza aver commesso reati e sono stati condannati a 20-30 anni. Quel tipo di amnistia non l'hanno voluta dare. Abbiamo fatto amnistia, l'abbiamo chiesta per i compagni latitanti in Francia. Ossia l'amnistia politica è stata richiesta più volte e con un movimento come quello di oggi credo che sia veramente un'utopia. Non c'è un movimento come c'era allora negli anni 70, quando poteva essere chiesta, eppure non l'abbiamo ottenuta. Non è che uno non la chiede perché non la ottiene, ma perché il movimento che c'è oggi non è in grado di fare una campagna di amnistia di quel tipo politico. Io penso questo guardando quello che è la realtà. L'indulto comporta sempre che le pene possono essere abbreviate, ma l'amnistia politica ci vuole il movimento. Abbiamo parlato di rapporti di forza. Nel momento in cui c'è il rapporto di forza, nessuno si rifiuta, eh? Va bene, io ho detto la mia sull'amnistia, ecco, in questo momento. Io continuo a lasciare il microfono a chi vuole intervenire, perché mi sembra giusto così. Diciamo, io ho una domanda. Visto che mi pare che devastazione e saccheggio sta nel codice Rocco, il codice Rocco l'ha firmato Mussolini, mi chiedo, a livello di Stato, quindi di apparato quindi di apparato normativo, quindi di apparato repressivo, quindi di apparato amministrativo, dal fascismo ad oggi, che cosa è cambiato? È cambiato molto poco dal punto di vista del codice penale, perché quello è rimasto. Il punto è questo, diciamo, no? Manca il codice repubblicano, dicevamo prima. È cambiato molto poco, ma la particolarità del momento che stiamo vivendo è quello che dicevo prima, anche per rispondere al primo intervento, è la prevalenza, la forza degli apparati rispetto alla politica istituzionale. Questo è il dato di fatto che in questo momento attraversa il paese, in questo momento, un momento che dura da molto tempo. E forse è anche vero che la battaglia dovrebbe politicamente collocarsi sull'amnistia. Il problema è che forse non c'è la forza per poterla agitare o promuovere nel paese. C'è anche questo dato di fatto. Ora io, insomma, è una constatazione che ciascuno di noi può fare nella sua vita quotidiana. C'è la solitudine dei movimenti rispetto alla politica istituzionale. C'è una sordità o una afasia da parte della politica istituzionale nei confronti dell'associazionismo e dei movimenti, che è un dato di fatto tangibile a tutti. Ecco. Va bene, io andrei per concludere. Ecco. Salve. Volevo aggiungere una cosa sull'amnistia. La parola un pochettino a me mi suona come un chiedere scusa. Mi chiedere scusa per qualche cosa che in fondo non penso che sia stata fatta da noi. Cioè, quello è subito il torto siamo stati noi. Quindi non sono d'accordo su un'amnistia. Loro devono rendersi conto dell'errore che hanno fatto. Cioè, non dobbiamo essere noi a chiedere a qualcosa di più grande scusa. Scusa. In che senso? Riguardo a che cosa? Io volevo rispondere soltanto che personalmente, da uno dei 10, mi rompe un pochettino l'idea di chiedere scusa. Sono troppo vicino alla cassa. La domanda è che non si fa in pubblico, ma nel momento in cui tu ti costituisci ammetti una colpa, cioè tra combattere, vabbè, non so, io spero. No, non mi sono costituito io personalmente. Vabbè, tu verrai. Non posso chiedere scusa per quello che hanno fatto loro personalmente io. Sa un po' di questo però, perché una volta che loro ti accusano per una cosa e tu gli dici per favore perdonami, per me è chiedergli scusa. No, io sto parlando soltanto di Genova. Se tu stai parlando di tutti i compagni, di tutte le altre persone, è un altro discorso però, personalmente. Allora, diciamo che sicuramente è un argomento che suscita interesse e io sono contenta che anche data la partecipazione sicuramente dovrebbero esserci sempre più momenti del genere. Per quanto riguarda Genova, la campagna insomma continuerà nelle prossime linee con un po' di date. Il 5 luglio prossimo saremo a Piazza Trilussa con un'iniziativa di piazza musicale, e il 12 sera in diverse città italiane si farà una diretta per continuare a parlare di Genova e del reato di devastazione e saccheggio. Milano, Firenze, in particolare probabilmente Taranto, faranno in alcune piazze delle loro città delle iniziative. Radio Onda Rossa le rimanderà e farà la diretta. E il 13 sicuramente è una giornata a cui bisognerà prestare molta attenzione. Noi dovremmo andare a consegnare queste firme, più di 15.000, alla Corte di Cassazione. C'è già un presidio convocato, e per cui insomma io invito le compagne e compagni, chi ci sta ascoltando, a avere in questa settimana, continuare a parlare di Genova, continuare a parlare comunque di carcere, perché poi è di repressione, perché quello è, insomma, Genova è anche per noi, oltre alle 10 persone che insomma personalmente, proprio perché Genova non può finire così per tutto quello che è accaduto, e non può finire che si sanziona definitivamente che le cose valgono più delle persone, che non c'è diritto di manifestare in questo paese, che una vetrina vale 15 anni e via dicendo. E quindi insomma io invito ancora a prestare molta attenzione, a partecipare e a continuare a parlarne. Sicuramente continueremo a parlare anche di la repressione in generale, dell'amnistia e via dicendo. Alla fine il paradosso sarà che chi ha torturato e ferito delle persone è meno pericoloso di chi ha ferito tra virgolette una vetrina. Con questo io concludo, noi concludiamo, io ringrazio gli avvocati, ringrazio Dina di essere venute, e ringrazio voi, e insomma discussioni del genere secondo me in tutte le piazze se ne potrebbero fare, visto che la repressione riguarda non soltanto le compagne e compagne ma un po' tutta la popolazione, per cui certo, io sto qui, io sto facendo una sorta di intrattenimento, per cui... Vabbè, io volevo dire una cosa perché mi ha incuriosito, non incuriosito, ma abbastanza stimolato sia l'intervento di Paolo, perché è un problema annoso. È chiaro che l'amnistia è legata ai rapporti di forza, è legata anche alla capacità di un movimento comunque di rivendicare le cose che fa. Cioè quando noi diciamo non eravamo un 10 ma eravamo 300.000, lì in qualche modo stai rivendicando una pratica. Allora il problema dell'amnistia è il problema dell'orizzonte, dell'abolizione del carcere, del fatto di rivendicare, per esempio nei Paesi Baschi si chiede l'amnistia, cioè capire che non è un modo di chiedere perdono secondo me, però è riaprire secondo me un dibattito sulla questione carceraria, che comunque rifà i conti, che sono decine e decine i compagni che stanno ancora in galera da anni e anni, e Paolo è uno di questi per esempio. No, ma non perché no, lo dico in senso no cattolico, ah Porello è... Ma è un problema di capire che dentro questo paese il sistema politico, lo Stato, c'hanno i scheletri dentro l'armadio, cioè qui ci sono le forze politiche che non hanno mai voluto riconoscere che dentro questo paese c'è stata un'opposizione politica e sociale anche violenta, che non è che io non faccio apologia della violenza, cioè noi vogliamo costruire una società basata sul regno delle libertà, su amore, su uguaglianza, su abolizione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Però è chiaro che c'hai un problema anche le forze politiche hanno bloccato un processo di cambiamento e non riconoscono la legittimità sociale e politica di chi lottò anche in maniera differente dalla forma istituzionale. Per cui è un problema che ritorna a noi, poi carcerati, fuori, chi andrà in galera, chi rimarrà fuori, chi sarà sanzionato, però sto problema c'è. Di quello della prigionia politica dentro a sto paese, perché sennò la prigionia politica si riduce a quei quattro infami che rubano, che mangiano, che fanno le peggio cose, no? E che poi sostanzialmente i politici, no? Invece c'è una generazione politica, ci sono dei ribelli, dei rivoluzionari che hanno provato dentro a sto paese a trasformare. E anche io penso a quelli che hanno preso pena esercitata 4 anni, cioè prima 4 anni via le banda armata, magari te ne sparavano 10, e questi piano al processo, al dibattimento finisce 4 anni, cioè metti che ne ho 8 poi ne pigli 2. Per cui è un problema che ci riguarda, riguarderà i compagni che dovranno fare i conti qua a porta quando entrano, e vabbè niente, comunque parliamone, perché non è che è una cosa che si può liquidare così, appartiene alla storia del movimento rivoluzionario internazionale. Scusate, no, secondo me appartiene soprattutto a ultimamente non soltanto, nel senso che se guardiamo anche quello che è successo il 14 dicembre o il 15 ottobre, le persone che sono state fermate, finora arrestate, eccetera, che sono dei semplici partecipanti, o comunque gli è stato dato 3, 4, 5 anni, a persone anche in qualche maniera che vengono alle manifestazioni e che non vengono, cioè noi non riusciamo tra virgolette a tutelare, e tantomeno, insomma, la catena debole anche in questo secondo me andrebbe in qualche maniera capita, perché non è neanche, cioè noi in qualche maniera abbiamo anche una forma di solidarietà tra di noi, no? Le compagne e compagni. Mi sono resa conto che tra il 14 dicembre e il 15 ottobre persone che hanno partecipato alla manifestazione hanno preso 3 anni e 4 mesi per esistenza, 5 anni per eccetera, poi alla fine anche qui c'è una sorta di solitudine, quindi anche quello che diceva Paolo eccetera, si può verificare se il movimento, i movimenti, chi organizza, chi fa eccetera, in qualche maniera si sente anche tutela, a partire da quello che viene dalla manifestazione fino a quello che è più attivo e via dicendo. In questo io vedo un po' è un po' stantia la situazione, quindi spero che in qualche maniera invece si possa riprendere una forma di tutela nostra e che fa sì anche che si abbia la forza di avere politicamente dei risultati a livello repressivo, che sono sempre più pesanti, cioè a livello di controrepressivo, ecco, diciamo così, una Simonetta subito, giustamente. Ciao, con questo chiudiamo, vi ringrazio e ci vediamo il 5 luglio a Piazza Trilussa e poi il 13 luglio www.10per100.it. salutiamo chi sta in studio per andare, tutti quelli che ci hanno ascoltato tramite lo streaming, chi ha potuto mandare le telefonate abbiamo fatto, e salutiamo ovviamente chi è privato e priva della propria libertà come sempre.